tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. Eccoci qua, Radio Wombat, Ponte Radio, come avrete sentito dalla sigla, in realtà prima o poi la cambieremo, dice, continua a dire quattro radio, ma in realtà le radio si sono moltiplicate come i pani e i pesci e sono ormai diverse di più. Si è aggiunta Radio Neanderthal, Radio Blackout, che insomma stanno portando il loro contributo e l'avrete ormai sentito nelle ultime settimane. Questa settimana tocca a noi di Radio Wombat, la redazione in toscana di Radio Wombat, e il tema però, come avrete sentito nelle scorse settimane, è montagna. Questo mese abbiamo un tema comune, collettivo, che ogni radio declina un po' a partire dal proprio territorio, anche non solo in realtà, ma insomma anche secondo le proprie inclinazioni. E noi abbiamo deciso di, abbiamo un po' colto la palla al balzo, perché lo scorso fine settimana a Firenze c'è stato questo incontro che si chiama Tellurica. La prima puntata, il primo incontro, che poi probabilmente vi diremo un po', vi racconteremo meglio, probabilmente avrà dei secondi episodi, avrà un continuo, però ecco, questo è stato il primo esperimento Tellurica, che è una due giorni, il sottotitolo era Territori in lotta, e che due giorni di studio e condivisione è stata il 15-16 febbraio al Next Emerson di Firenze, e che aveva un po' l'ambizione di avere un respiro nazionale e di aggregare varie rotte e vari progetti. Sì, cercava, sì, dici bene, cercava, l'intento era decisamente quello di creare rete e condividere strumenti, analisi, percorsi sbagliati, percorsi di successo nelle varie lotte territoriali. E, a monte di tutto, cioè, ci è parso che questa volontà di far rete fosse grande, sia per la partecipazione stretta a Tellurica delle varie realtà individuali, collettive, più strutturate, meno strutturate, ma anche di eventi e ritrovi simili a quello di Tellurica. Ad esempio, le mobilitazioni della montagna non si arrende, legate al CIO, al Comitato Insostenibile Olimpiadi, o a tante lotte territoriali, ad esempio, che si stanno svolgendo nella costa tirrenica toscana e non solo. Ora, questo appunto è difficile essere esaustivi sui singoli casi, ma sui singoli eventi, le singole lotte, perché davvero uno dei moventi, ecco, di questi due giorni è stato proprio realizzare che c'è molta frammentazione, ci sono molti di queste lotte che appunto magari non si parlano, sono poco consapevoli di ciò che hanno intorno. E devo dire, questa cosa è stata, che poi sì, come dicevi, il movente iniziale di questi due giorni è stato piuttosto confermato dalle presenze e dai racconti di ciascuna individualità o collettivo che era presente, perché effettivamente era una cosa che ricorreva, era una considerazione che ricorreva, questa sensazione di atomizzazione e di isolamento, non solo come si potrebbe magari pensare nei territori montani, nei territori più isolati, magari anche geograficamente, ma anche nelle città. E soprattutto città magari lontane tra di loro. Gli inviti a questa due giorni erano moltissimi, le adesioni, le partecipazioni in realtà avevano un carattere un po' meno nazionale di come probabilmente si era cercato, ma c'erano molte realtà. È stato un inizio, dai. Sì, ci può stare. Molte realtà erano prevalentemente dalla Toscana, anche comprensibilmente, insomma, per una questione anche di vicinanza, di raggiungibilità, ma c'erano anche presenze di altre regioni. Ad esempio c'era l'Ambulatorio Popolare di Milano, perché forse non l'abbiamo detto, è vero che ci dà l'assist per parlare di montagna, ma non abbiamo parlato soltanto di montagna, a Tellurica abbiamo parlato anche di città, di territori in senso lato. Esatto, e diciamo, in questo inquadramento di lotte territoriali, emerso, ci sono stati tre tavoli di carattere diverso, uno sulle emergenze, uno sul consumo di suolo e uno su politiche di esclusioni e mobilità. Quest'ultimo era l'unico che aveva di base un focus prettamente urbano, cioè come le periferie di base vengono escluse con scelte programmatiche, amministrative e politiche. Gli altri due invece avevano un carattere in cui diciamo il conflitto, se vogliamo, o la dicotomia tra urbano e non urbano era evidente, dove ad esempio soluzioni, pratiche, aspettative, analisi avevano si ritrovavano ad avere conseguenze molto diverse se applicato a un contesto urbano o a un contesto montano. Sì, tra l'altro, tra le cose che vengono sottolineate, poi lo sentiremo anche in alcuni interventi che faremo ascoltare in questa trasmissione, si sottolineava proprio questa volontà di provare a sconfiggere anche un po' questa dicotomia, questa separazione tra urbano e non esatto. urbano. Esatto, sì. Dai, ci abbiamo un po' provato e... Ad esempio un altro carattere che secondo me è stato evidente è che le esperienze non urbane erano molto più dettagliate, avevano un carattere pratico, profondo, molto molto molto, se vogliamo, ultra specifico, mentre, come forse la radio anche vi ha insegnato, le analisi più urbane, più cittadine hanno un carattere più intellettuale, più progettuale, con un respiro più lungo, mentre le lotte ad esempio non urbane, ora e oggi davvero ci andiamo più sul montano nello specifico, però hanno proprio questo carattere in cui, cioè, uno ti parla di trattori, quell'altro ti parla di piani operativi comunali, ecco. Sì, e devo dire che però anche lì è stato, questo assolutamente è vero, e però sia perché era un po' programmatica la voglia anche appunto di invece di far convergere le due anche modalità, certo. Ma anche abbiamo trovato nei vari tavoli delle convergenze effettivamente impressionanti, cioè sul fatto che comunque i meccanismi di estrattivismo, di speculazione, di assegnazione di un valore che ha un territorio, che è sempre un valore speculativo in qualche maniera su cui far profitto, ecco, queste dinamiche si ritrovano veramente alla stessa maniera, se magari con qualche sfumatura, in un territorio urbano e in un territorio extraurbano. Quindi i problemi e le loro cause in fondo sono quelle. Assolutamente, sì, assolutamente. Probabilmente la differenza centrale è una questione di scala, non di tipologia, cioè è semplicemente che la devastazione ambientale, ad esempio per cause energetiche, la grande questione di questi tempi, cioè il fabbisogno energetico sostenibile giustifica la devastazione dei territori, soprattutto in territori dove è dubbioso anche la necessità di tutta quell'energia, noi abbiamo una risposta, però ecco, queste erano ad esempio tante delle questioni che ci siamo poste. Sì. Direi che possiamo iniziare con un pezzo musicale, giusto per prenderci un attimo il respiro, e poi subito dopo partiamo con un'intervista che abbiamo realizzato. In realtà avremmo voluto intervistare veramente tutte le varie anime che abbiamo conosciuto di cui abbiamo approfondito la conoscenza a Tellurica, perché veramente il loro contributo, il contributo di ognuno, devo dire anche facilitato dal fatto che non erano assemblee e basta, ma erano tavoli un po' divisi in gruppi, quindi era un po' più facile, anche non c'erano mega assemblee fiume, ma si era in un gruppo un po' più limitato, anche se insomma le persone erano tante, però il contributo di ognuno è stato molto prezioso effettivamente, tutte ci hanno messo veramente del loro, però siamo riusciti a incastrare soltanto alcune persone, e quindi abbiamo intervistato Prato Magno senza asfalto, e cominceremo da lì questo primo racconto anche intervistato, che è un, lo spiegheranno meglio loro, comunque che è una realtà ormai che esiste da qualche anno, che di fatto è una realtà di lotta, di difesa del territorio, che nasce proprio in contrapposizione a un progetto di speculazione in un determinato territorio, e quindi ha porta con sé anche tutte le caratteristiche di un movimento che nasce come difensivo in qualche maniera. Mentre invece poi parleremo di Terra Liquida, intervisteremo anche Terra Liquida, che è un progetto di un altro tipo ancora, e parleremo poi invece successivamente con un'altra persona che invece si è presentato semplicemente come individuo, che ci fa un racconto di come si vive la vita nei territori montani, quindi un racconto un po' più individuale, che comunque ci è sembrato un contributo molto interessante. E quindi mettiamo intanto un po' di musica. Allora, Radio Wombat, siamo ai margini di Tellurica, questa due giorni che è avvenuta il 15-16 febbraio al Next Emerson a Firenze, E abbiamo con noi due persone a cui vogliamo chiedere un po' un racconto della, del proprio progetto, della propria iniziativa. E in particolare partirei da un compagno del collettivo Prato Magno Senza Asfalto, comitato forse, dimmelo meglio te, e ti chiederei di raccontarci, intanto partire da raccontarci un po' come si è formato il vostro comitato e di perché. Il movimento Prato Magno Senza Asfalto, che è un'unione di persone individuali e di vari gruppi e comitati della zona, come dice la parola stessa, del Prato Magno, gruppi come il Bercio di Loro Ciuffenna, Collettivo a Bomba di San Giovanni, Casentino Antifascista e vari altri che adesso sarebbe troppo lungo nominare. E il movimento è iniziato, come dice la parola del titolo, quando si è venuti a sapere che si stava procedendo a mettere in atto dei progetti che prevedevano l'asfaltatura della strada, diciamo, nei pressi del crinale e anche in parte più in basso, che coinvolge i due versanti della collina del Prato Magno. Alcuni tratti più in basso di questa strada erano effettivamente già stati asfaltati nel lontano passato, però molto più in basso. Questi strati invece, questi sono proprio quelli più in alto e verrebbero a coprire una strada bianca con un fondo abbastanza consistente, misto di ghiaia e rena. E questa notizia ci ha molto preoccupato per vari motivi, che sono stati poi condensati in uno studio di opposizione che è stato presentato alla Regione da parte di un gruppo di studiosi, che ha a che fare col danneggiamento, con l'influenza insomma negativa sulla fauna e sulla flora, con la intersezione con progetti protetti nell'ambito dell'azione europea Natura 2000, e comunque anche perché rappresenta una visione della valorizzazione di queste aree di montagna che corrisponde essenzialmente alla estrazione di valore monetario mediante la costruzione di opportunità per iniziative di tipo turistico consumistico. Tutto parte dalla legge regionale numero 54 della fine del 2021, la quale è tutta dedicata a interventi di tipo boschivo naturale, ma che comprende vari capitoli. Uno di questi capitoli è il Prato Magno, appunto, e si parla di riqualificazione, valorizzazione, forse anche di riqualificazione delle viabilità, ma la parola asfalto non c'è assolutamente. Questa declinazione della riqualificazione della parola Prato Magno in termini di asfalto è sostanzialmente un'invenzione mista della giunta regionale che attua la legge e delle dirigenze, dei sindaci, insomma le giunte dei tre comuni coinvolti, che sono quello di Loro Ciuffenna, che da questo punto di vista è stato il primo e che ha già fatto la sua parte di spesa, e invece i due comuni dall'altro versante, che sono Monte Mignaio e Castel San Gimignano. Appena insomma si è saputo, molto dopo insomma, abbiamo preso varie iniziative, abbiamo convocato incontri più o meno comuni, abbiamo in particolare due abbastanza numerosi di successo alla Filanda di Loro Ciuffenna, alla ex Filanda di Loro Ciuffenna, nel primo, che è stato all'inizio dell'anno scorso, ha partecipato anche intervenendo nel dibattito il sindaco di Loro Ciuffenna. Nel secondo, che è stato di recente, ha partecipato però come semplice uditore, devo dire, con un attento, il sindaco di Loro Ciuffenna nuovo, quello nuovo. E in questi incontri sono state molto dettagliate. L'ultimo incontro addirittura ha visto la partecipazione di esperti in antropologia, in zoologia, botanica e scienza delle foreste. E la nostra opposizione nasce dal fatto appunto che temiamo molto la realizzarsi di questa cosa. Il comune di Loro Ciuffenna aveva avuto un finanziamento di 300.000 che ha già usato per asfaltare una parte della strada di competenza. I comuni di Castel San Gimignano e Montemignaio non hanno ancora messo in atto, si lavorano congiuntamente, hanno presentato un primo progetto che è stato, e anche a questo sono state fatte opposizioni, e quindi poi è stato giudicato da rivedere da parte degli uffici regionali, e adesso hanno commissionato ad una ditta, Erse si chiama, che è appunto specializzata in questo genere di expertise, e la quale appunto ha presentato un progetto di studio di incidenza per motivare che insomma questa incidenza non sarebbe stata grave. Però ancora la regione non ha dato il via libera completo, i fondi sono già stati stanziati, ma probabilmente nel corso di quest'anno 2025 la cosa si potrà sviluppare e avrà bisogno di un'opposizione notevole. Un'altra manifestazione bella che abbiamo fatto è stata sul crinale, sulla montagna. Ci siamo trovati tutti quanti un bel giorno di maggio, e c'era anche un bel sole, abbiamo esposto i nostri principi, ci sono state varie comunicazioni, anche 10 minuti di meditazione in silenzio da parte di tutti nella contemplazione della natura. Ma mi veniva in mente mentre parlavi, no, che si è partiti dall'idea di riqualificazione di un territorio, quindi si parte dall'idea che quel territorio sia da riqualificare, quindi evidentemente in qualche modo degradato, possiamo dire così. E questa è l'idea che viene forse un po', forse calata dall'alto, no? Quindi un'analisi, un giudizio dato su un territorio con un bollino, ok, questo è da riqualificare. Chiedo a voi invece come sentite questo territorio, è un territorio che sentite da riqualificare, è un territorio che sentite degradato, se sì perché, e soprattutto come lo vorreste riqualificare, in che modo? Certo, in effetti l'ultimo incontro, quello con gli esperti, era intitolato Il valore del Prato Magno. Quindi il nostro discorso verte anche intorno a una ricomprensione del concetto di qual è il valore che questa bellissima zona della Toscana veramente ha, qual è il valore che esso ha avuto nel corso dei secoli e qual è invece quello che appunto ricorre nelle parole degli speculatori, che appunto per loro valorizzazione è estrazione di valore monetario. Per noi che sentiamo la responsabilità e l'onore di conservare a coloro che verranno, perché noi sappiamo che non dureremo a lungo, ma la montagna sì, e quindi di conservare questo patrimonio, questa ricchezza, che ha a che fare con la presenza di specie animali e vegetali non comuni, in alcuni casi, altre sono anche più comuni, ma insomma ha a che fare con la pace, la tranquillità della zona, dove a parte questa strada, che è una strada appunto bianca, ma ci sono solo i sentieri delle escursioni, ci sono naturalmente degli insediamenti, c'è questa grande croce che è stata messa molti molti anni fa, che, croce, insomma, del Prato Magno, che è di metallo, sì, la famosa croce del Prato Magno, quella resta lì, va bene, ci resterà, è un punto di riferimento, ormai non è che lo vogliamo abbattere, ce ne guardiamo bene, però è questa compresenza, questo nostro sentirsi parte di una natura e non suoi sfruttatori, no? Che ci spinge, e ci spinge anche a riqualificare l'eventuale sviluppo di iniziative anche turistiche che comprendano la presenza di persone che non hanno la fortuna di vivere in questo ambiente la loro parte massima della giornata. Però non possiamo, cioè certamente anche il mio paese, Loro Ciuffenna e tanti luoghi del Prato Magno sono meta proprio anche della popolazione che sta strettamente nel Valdarno sotto di noi, no? che non vedono l'ora di potere nelle giornate di sole, della domenica, eccetera, di venire e così via. Bene, queste persone non è che glielo possiamo negare, no? Di condividere questo patrimonio, ma non possiamo accettare che sia un'esigenza puramente di distrazione che informi la qualità dell'apparire e dell'essere delle zone della montagna. Devono accettare, noi riteniamo che essi debbano accettare quelli che sono stati le ricchezze del passato, che tra l'altro naturalmente sono a loro volta a rischio non soltanto a causa di questi progetti, ma sono a rischio perché anche per effetto dello spopolamento ci sono vasti lavori di manutenzione che devono essere compiuti. E per noi la manutenzione è un punto qualificante sul quale dobbiamo iniziare a lavorare in tutto il prossimo anno con vaste iniziative, perché è bene che la popolazione di questi comuni, in parte ancora succube dell'ideologia predominante, capisca che Pratomagno senza asfalto non ha soltanto dei no da dire, più che giustificati, ma anche dei sì da proporre e da attuare, e che è un movimento che non sta semplicemente parlando, ma sta anche facendo. Ti ringrazio. Sì, fra l'altro parlavamo di manutenzione anche durante Tellurica, è ricorsa più volte questa parola, e parlavamo anche lì di come sarebbe bello ricominciare a fare una manutenzione collettiva, quotidiana, e che i momenti di manutenzione non fossero delegati alle amministrazioni o non soltanto all'amministrazione, allo Stato, ma che le persone che abitano i territori si facciano carico non più individualmente, che spesso è insomma anche difficile da fare, è oneroso e anche ingiusto volendo, ma collettivamente. Quindi la cosa che dicevi penso sia molto interessante. Questo buffo autocommento per venire su me stessa, però sì. E questo era il primo intervento, la prima intervista presa da Tellurica, come vi raccontavamo, Ponte Radio, se vi siete messe in collegamento solo adesso, trasmissione condivisa tra varie radio in giro per l'Italia, e parliamo oggi, di montagna. Sì, oggi parliamo di montagna e appunto, come dicevi, questo contributo è stato da parte di Pratomagno senza asfalto, quindi una realtà che lotta, agisce nella bassa Toscana. Ora, per dare un minimo di connotato geografico, il Pratomagno si trova nel Valdarno, quindi a sud di Firenze, ed è una zona praticamente di spartiacque tra il Valdarno, appunto dove ci passa anche la 1, probabilmente siete forse passati in macchina, e il Casentino, che è una zona appenninica appunto verso l'interno. Dalle parole, secondo me, io sono stato sovraesposto ovviamente a Tellurica, perché anche io ho partecipato, però delle cose che sono state appena dette, secondo me ci sono degli elementi molto interessanti, come abbiamo introdotto tutta la discussione dicendo che le nostre lotte alle volte sono molto frammentate, ma questo carattere di frammentazione lo vediamo anche negli amministratori e nei pianificatori delle devastazioni. Nello specifico si parlava prima di tre comuni che possono avere interessi diversi e a sua volta delle regolamentazioni regionali, quindi si capisce come delle comunità che agiscono su dei territori ufficiosi, perché per noi i territori sono quelli che vengono vissuti, non quelli dei connotati burocratici proprio stretti, si trovano a competere letteralmente con delle realtà che hanno formalmente interesse locale, di nuovo questi tre comuni, e una legislazione regionale che a sua volta subisce interessi nazionali, se non di più, in particolare quelli energetici, o quantomeno di appunto, possiamo, cioè, senza girarci intorno, di speculazione, di erogazione. Pensiamo al PNRR, ci sono delle opere che devono essere fatte proprio per chiudere il portafoglio, per così dire, no? E in tutto ciò questo elemento secondo me è molto particolare. Altra cosa secondo me importante, ora che non so se appunto hai detto te o lui, però insomma secondo me emergeva, è questo la questione delle comunità attive e di chi insiste effettivamente in questi territori. Cioè mi è parso chiaro come ci siano persone che agiscano ma che sentono la necessità di allargare la propria rete in questi territori e che in questo contesto proprio, cioè questo è bene secondo me essere chiari, è un problema, bisogna riuscire a allargare queste reti. Uno degli ostacoli principali che dicevamo fuori dai microfoni è però che costruire delle reti nel mentre ti devastano tutto è piuttosto complicato. E sì. Tra l'altro un'altra cosa che veniva fuori, che vi raccontiamo perché secondo noi può essere utile, si è sentito molto l'esigenza di fare mappature tendenzialmente in questi due giorni, si è parlato spesso di mappature, quindi la sensazione di dover mettere anche un po' nero su bianco e mostrarlo in maniera insomma evidente sia le devastazioni, l'attacco, chiamiamolo così, ai nostri territori che sappiamo, che però metterlo nero su bianco su una mappa dà un altro impatto, sia anche invece le mappature di servizi autogestiti, di comunità, diciamo di un differente modo di stare insieme e di fare comunità. Sulle questioni energetiche, per esempio, si è una delle varie proposte, che poi chissà se verranno raccolte, ma speriamo di sì, è stata ad esempio la possibilità di mappare le superfici le superfici industriali presenti in Italia, perché quando si tratta di scegliere, ok, c'è un problema di fabbisogno energetico, non andiamo nel perché c'è questo problema, che vabbè sarebbe in realtà il problema da affrontare, ma vabbè, concentriamoci sul ok, adesso bisogna produrre energia per esempio con il fotovoltaico, con l'eolico. Il fotovoltaico, quando si è deciso, va bene, dove andiamo a posizionare il fotovoltaico, si è scelto, queste scelte ormai sono nere su bianco e se le subiscono tutti i vari territori, si sceglie di andare per esempio sui crinali, sulle montagne, sulle pianure ancora non costruite, perché paradossalmente costa meno, almeno questa è un po' la narrazione, costa meno che non andare a invece costruire su un territorio urbano, su un territorio per esempio già industriale. Ora, anche lì si è scelto di non fare, ad esempio, di non prendere la via del costruire e montare i pannelli fotovoltaici sui tetti delle fabbriche, che era una possibilità su cui chiaramente lo Stato doveva intervenire, perché non è che puoi lasciarla al buon cuore della singola industria. Te potresti, così come strategicamente hai deciso che i crinali diventano il luogo da cui fare profitto e impiantarci le pale eoliche, potevi decidere invece no, andiamo a fare esproprio, chiedere che i tetti delle industrie siano utilizzati per questo scopo, cosa che scientemente è stato deciso di non fare. Si parlava durante Tellurica del fatto che questa cosa avviene perché si iscrive in un generico, una dinamica che ritroviamo spessissimo del dare valore ai territori, così come nelle città esistono dei quartieri di serie A e di serie B che hanno una funzione specifica all'interno del capitalismo, per cui c'è il quartiere produttivo, c'è il quartiere meno produttivo, c'è quello che ti produce da un altro lato, cioè meno profittevole, forse più in senso è più largo, diciamo. Esatto, alla stessa maniera per esempio, abbiamo parlato spesso, essendo molte realtà presenti, erano toscane, il Chianti chiaramente ha una sua produttività di un certo tipo, quindi al Chianti ci si fa il vino, ci si fa il turismo, il Casentino no, il Casentino non è turistico, perlomeno non lo è ancora. È una differente, sì. Il turismo enogastronomico. Esatto, ecco, i crinali delle Apuane sono storicamente viste come produzione, lì si produce il marmo, industrie, quindi ci si può anche mettere le pale eoliche, ci si può distruggerle ulteriormente. Stessa cosa nel Mugello, anche quello produttivo, e quindi i crinali delle alte valli del Mugello, anche lì ci si può fare produzione. Su questa io sono molto d'accordo con quello che hai detto, in particolare cioè su questa caratteristica estrattivista, cioè questa visione strettamente estrattivistica del territorio. Un carattere forse un po' diverso che vediamo di recente è un po', se vogliamo, l'aspetto temporale di questo estrattivismo, cioè le Apuane sono sfruttate da secoli, ci sono dei caratteri, appunto, se vogliamo, più naturalmente ovvi in un certo senso, cioè c'è una risorsa naturale in quel posto e la vado a estrarre. Le lotte di cui stiamo parlando, ad esempio la questione dei pannelli che ha appena citato, o quello che è stato appena detto sul Prato Magno, hanno invece proprio un carattere schizofrenico pianificativo, cioè c'è una necessità che a un certo punto diventa impellente, strategica, necessaria, e si giustifica da un punto di vista economico in genere, dicendo che è strategico perché altrimenti perdiamo i soldi, altrimenti bruciamo questo, altrimenti ci costerà di più. Altrimenti non si può rinunciare al fossile. Altrimenti non si può rinunciare al fossile. Agiamo, regolarmente succede un disastro ambientale che a sua volta non ha un costo, proprio parlando strettamente di soldi, non ha un costo minore di quella caratteristica intensiva estrattivistica. Cioè, quello che intendo è, appunto, di nuovo, cioè, l'estrattivismo va avanti da secoli, ma quello che vediamo ora è un estrattivismo intensivo, dove ad esempio tra i partecipanti a Tellurica c'è stato professor Budini Gattai, che per un'altra città, mi pare, scusate l'imprecisione, non sono sicuro, però hanno fatto delle stime che, ad esempio, come dicevi, riutilizzando le superfici delle fabbriche abbandonate, non quelle in utilizzo, solo quelle abbandonate, nel territorio italiano saremmo in grado probabilmente di coprire tra il 30 e il 40% del fabbisogno energetico civile della popolazione. Ora, si tratta di stime e si parla, certo, appunto, non del 100%, però di fronte a questo, sapere che, per provare a quantificare un po' di cosa stiamo parlando, al comune di Firenze, alla città metropolitana di Firenze, con una popolazione tra 300-400.000 abitanti, si propongono, che ne so, 100 ettari di pannelli fotovoltaici in aree strutturali, mentre in Val di Corna, dove ci sono la media delle città, dei paesi, direi, è di circa 3.000 abitanti, si propongono 1.100 ettari. Esatto, questo dà la dimensione. Cioè, la sproporzione è assurda, e di base, come dicevi te, la giustificazione finale è di gestione, cioè che se tu hai un territorio senza niente intorno, la manutenzione proprio dell'infrastruttura energetica, del pannello, di questo, di quell'altro, il raggiungimento in macchina è molto più semplice, mentre in città diventa, cioè fondamentalmente viene detto che è più costoso, ma di base il punto qual è? È che facendo una roba del genere, cioè recuperando gli scarti del Novecento delle fabbriche abbandonate, leveremmo territorio alla speculazione, perché quelle fabbriche poi dovranno essere ricostruite vorrebbero essere ricostruite da qualcuno, e quindi c'è questo circolo vizioso dove molto, secondo me, è molto viziata la discussione economica, perché anche al netto della proprio malintenzione, della pessima pianificazione, proprio i conti non tornano, cioè, a livello economico. Tra l'altro, cioè, la difficile raggiungibilità che dicevi, citavi, cioè, pensa ai crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, Giogovillore, tutte quelle battaglie che stanno facendo attualmente. Purtroppo il processo è già partito, già stanno scempiando, sono arrivati già con le ruspe, hanno sbancato già una buona parte dei crinali. Comunque arrivare fin lassù non è facile. È più raggiungibile se si considera che lì non c'è niente, cioè se si considerano le montagne una sorta di foglio bianco dove tu puoi costruire facilmente perché non c'è niente. Ma i crinali delle montagne non è che non sono niente, i corsi d'acqua non è che non sono niente. Sì. Cioè, anche lì c'è una visione molto spesso concentrata sull'urbano e su un certo tipo di urbanizzazione, per cui sembra che sì, sono deserti perché non c'è gli insediamenti umani. Insomma, parliamone. Sì, è perché, appunto, probabilmente sempre nella dicotomia urbano, non urbano e oggi montano, oggi intendo una trasmissione di oggi, cioè l'urbano è ciò che è più impellente, più esigente, è ciò che è più facile da usare come grimaldello per giustificare appunto queste cattive, cioè cattive proprio veramente gentile, un modo gentile di definirlo, insomma, pianificazione. Quindi direi forse spezziamo ancora un po' con un po' di musica e torniamo poi in studio con la seconda intervista, che è quella al progetto Terra Liquida, che è un progetto che nasce nell'Appennino Tosco-Emiliano a seguito dell'alluvione dell'anno scorso, sostanzialmente di un anno e mezzo fa, e ci racconteranno un pochino della loro esperienza e da lì partiremo un po' a parlare proprio dell'emergenza come un momento in cui si crea comunità, cioè in cui hai modo di riallacciare anche un po' e tirare anche le fila del perché ti trovi in un certo territorio e come lo vuoi abitare e come fare per mettere in atto i tuoi propositi. Tra l'altro all'Atere 2 settimane fa siamo state anche a un incontro che c'è stato con alcune compagne di Valencia, invitate dalla GKN a Campi Bisenzio, quindi erano due territori che avevano subito due alluvioni pesantissime con le dovute differenze, ma insomma che avevano gravato sulle comunità in maniera pesante, e anche lì è stato un bel incontro dove si parlava proprio di questo. Anche lì evidentemente questo tipo di discorsi ricorrono, cioè come il momento dell'emergenza è un momento aggregante in cui in qualche maniera ti viene anche la speranza di dire ok, qualcosa è possibile, possiamo ricominciare a fare qualcosa, poi finisce l'emergenza e di base ritorni alla tua vita e puoi solo sperare quasi tra virgolette nella prossima emergenza, anche se non te la auguri. E quindi si è parlato anche molto di questo, ma non anticipo troppo, e quindi a breve sentirete con le vostre orecchie. Place. Abbiamo qua anche un compagno di invece Terra Liquida che a cui vorremmo chiedere un sacco di cose, perché in realtà a Tellurica ci avete aperto un po' un mondo. E ti partirei intanto dal chiederti la, come dire, anche a te il racconto dell'esperienza, da come siete partiti, come siete costituiti anche come gruppo, da dove? Sì, allora io sono Patrizio e ho cominciato a partecipare a tutte le dinamiche che sono susseguite all'alluvione del 2023 in Romagna, che ha colpito un'area estesa, molto estesa, quindi tantissimi fiumi, sono straripato in una quarantina, non faccio i numeri precisi, insomma c'è stata una grandissima mobilitazione dovuta al fatto che ha colpito una grande parte di territorio e anche quindi di popolazione. Questa mobilitazione si è ritrovata a fare i conti un po' con l'agire delle istituzioni, che erano impreparate totalmente, dall'altra con una grande mobilitazione di persone che spontaneamente oppure in maniera coordinata da esperienze precedenti hanno cominciato a riunire queste forze in campo, no? Tutta questa energia pronta a fare qualcosa per venire incontro alle necessità di altri che sentivano le proprie. Io ci sono saltato dentro e ho cominciato a collaborare prima con un gruppo che si chiama LBSA, che faceva parte di un coordinamento già di altre situazioni e gruppi che si davano da fare. Con Terra Liquida ho avuto l'incontro, perché vi riporto la mia esperienza personale, durante un meeting simile a quello di Tellurica, che riguardava poi le emergenze, l'ambiente come cardine, no, della criticità della nostra società oggigiorno. E quindi attraverso questo meeting, attraverso diverse proposte di operare partecipazione, ho incontrato il gruppo di Terra Liquida, che è nato anch'esso come tantissimi altri, come gruppo spontaneo, che attraverso la casualità, l'affinità di alcuni elementi che si conoscevano bene, dei quali alcuni erano anche loro stati investiti dall'alluvione, li ha portati, no, per forza di cose a confrontarsi col far qualcosa, perché si era data la situazione. In un primo momento loro avevano operato più in città, anche perché la città o le città colpite erano più sotto i riflettori, esatto, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista degli aiuti che sono sopraggiunti da parte delle istituzioni e quindi anche poi dalla possibilità di ricevere aiuti volontari dall'esterno. Poi quella è stata anche un momento in cui non ci si è più capiti, no, quanto fosse benvenuto e quanto no, no? Ma questi sono discorsi dell'anno scorso, adesso parliamo di quest'anno. Insomma, Terra Liquida ha cominciato a confrontarsi un po' per caso con un territorio diverso da quello della città, un po' come quello della collina, per affinità con l'ambiente, dove sembrava più interessante operare perché sembrava che le proprie abilità fossero più utili, e un po' perché le istituzioni erano meno presenti. E quindi siamo andati a pungolare lì dove appunto la chiamata era stata isolata, ma appunto la punta dell'iceberg di una situazione molto molto emergente e quindi da approfondire, perché appunto nel territorio montano, collinare, l'alluvione ha avuto riflessi diversi da quelli della città, meno alluvionali e più di frana, contesto di frana, sgretolamento di versanti, occlusione di strade, quindi isolamento anche per far arrivare aiuti, quindi molto molto complesso. E al tempo stesso questo isolamento a noi, non preventivamente, ma abbiamo riscontrato che fosse l'opportunità e l'occasione di un germe di autogestione, nel senso che l'ombra delle istituzioni, cioè l'ombra nel senso non essere tanto presenti, o difficoltà, no, di frenare questi movimenti spontanei, faceva sì che le situazioni, per quanto isolate, fossero cristalline nel poter agire secondo delle dinamiche da scrivere un po' da zero, e quindi vedere un po' come in relazione di vicinato e le capacità proprio di interfacciarsi col proprio territorio circostante in situazioni di emergenza venisse alla luce quanto potesse essere un campo d'azione libero per ridisegnare un po' ciò che era stato un po' messo in crisi dall'evento dell'emergenza, diciamo. E quindi operare direttamente noi facendo dei piccoli interventi di ricostruzione, pulitura della strada, ricostruzione e messa in sicurezza del versante in maniera molto molto basica, perché i mezzi che avevamo erano inefficienti da un certo punto di vista, ma comunque dei granelli di sabbia rispetto a quello che poi se si vuole vedere da un certo punto di vista tutta l'infrastruttura, no, ha un costo enorme. Sì, chiaro. Però non siamo la Protezione Civile. Non siamo la Protezione Civile, non siamo la regione che stanzia fondi, no, ma con piccole raccolte fondi siamo riusciti a noleggiare degli scavatori, e mettere insieme dei materiali, come a seconda delle situazioni qualcuno ha prestato della legna per fare dei pali di stabilizzazione, cose diverse. E quello è stato, adesso noi ci identifichiamo un po' in questo tipo di opere, no? Quindi la manutenzione del territorio, ma a me sembra poi a posteriori, un po' quando poi anche l'emergenza si è un po' affievolita e diluita nella quotidianità, quanto quegli episodi fossero come dire, la possibilità di costruire in maniera diversa e alternativa quei territori lì. Questo vuol dire che più che delle opere straordinarie o delle intenzioni eroiche, no, quello che serve e poi sempre ritorna a costruire il giorno per giorno attraverso tessere relazioni, fare cultura e formazione su quello che è la cura del proprio territorio, che è l'elemento fondamentale per cui poi si può scongiurare l'emergenza, attraverso delle buone pratiche no, di competenza, di conoscenza del territorio, di vicinato, di costruzione di come dire, servizi per la comunità che non ricadano in logiche di consumo e profitto che poi vanno a beneficiare alcuni e poi portare il rovescio della medaglia, ad altri. Sì. No? È una cosa molto complessa ed è questa una riflessione a posteriori. Terra Liquida, a me piace pensare che è emersa, no, come realtà che ha voluto poi consolidarsi diventando associazione, che sta ancora tirando un po' le fila di come continuare questa esperienza rendendosi utili sia nella cooperazione e coordinamento nell'ambito delle emergenze come evento che non puoi tirarti indietro, o comunque ce n'è un bisogno vero e proprio. E al tempo stesso quel discorso di seminare autogestione e quindi consolidare delle pratiche che diventino poi dei modi di fare o delle esperienze, delle progettualità di comunità. Mi veniva in mente quando tu parlavi del momento in cui si accendono i riflettori, no? Perché effettivamente in qualsiasi di questa emergenza, che sia un terremoto, che sia un'alluvione, c'è un momento in cui chiaramente la popolazione prende atto che quel territorio esiste, tra l'altro, spesso, e si rendono evidenti delle situazioni drammatiche su cui ovviamente bisogna mettere le mani. Mi viene in mente l'esempio dell'alluvione, anche qui in questo territorio abbiamo vissuto l'alluvione di Campi, della Piana Fiorentina, e viviamo piccole alluvioni in realtà poi costantemente, perché purtroppo è una cosa che ricorre sempre più frequentemente, ma anche la cosa che dicevi mi torna, perché l'ho rivista anche qua, insomma la vedo ricorrere, si accende il, abbiamo visto anche a Tellurica, il tutta la, il flusso dell'acqua, che in realtà l'alluvione non è che arriva da cioè non è una malattia, non sono cavallette arrivate da zero, ma è l'acqua che arriva dall'alto, dalla montagna, scende giù e poi arriva a valle. E tendenzialmente il riflettore si accende a valle, si accende nei territori urbanizzati, per una serie di ragioni, anche perché banalmente, intanto perché viviamo in una società capitalista, per cui laddove viene visto un territorio più produttivo, e generalmente la città viene vista come il luogo della produzione, allora lì è più importante mettere le mani, è lì che si accende il riflettore, ma anche perché effettivamente ci vivono tante persone e ci concentriamo spesso solo sugli esseri umani, quindi effettivamente quando siamo andati noi a mettere le mani nell'emergenza post alluvione, ad esempio a Campi, ti trovavi di fronte a tante persone che effettivamente avevano perso la casa, avevano perso tutto, e quindi è anche comprensibile che si accenda il riflettore. Però si spenge completamente il riflettore, o forse si mantiene spento, su tutta quell'altra parte alluvionata, che è la parte della montagna e della collina, e quella che poi ha portato a valle l'acqua, un po' perché penso ci vivono meno persone, quindi i drammi anche di quelle persone, tanto sono persone isolate, quindi se quelle persone che vivono magari nell'Alto Appennino sono rimaste isolate, possono rimanere per un mese, perché tanto in fondo sono due, di là c'avevi un quartiere dove sono in un solo quartiere magari ci vivono migliaia di persone, e quindi poni più attenzione a quell'altro, e quegli altri sono pochi, quindi li lasci lì. È un po' perché non si tiene conto del fatto che a subire i danni non sono solo gli esseri umani, ma anche tutta la montagna, cioè quando c'è un'alluvione, quello che rimane danneggiato non è soltanto il luogo antropizzato, ma è anche, come dicevi, le frane, i corsi d'acqua che si modificano, e lì non si interviene, o se si interviene, a me mi è parso di notare, chiedo anche a te se è anche la vostra esperienza, si interviene con piccoli tamponamenti per magari ripristinare, vabbè via, quella persona è rimasta isolata, dopo un mese mi accorgo che effettivamente forse ha bisogno della strada, l'aiuto, se va bene, però non è che poi si va nel bosco a vedere che è successo, se lì c'è magari da sistemare una situazione, se... Cioè, gli interventi comunque si concentrano sulla parte antropizzata. Sì, ma allora, io non so se sia una questione di antropico o non antropico, o diciamo, una strategia di differenziare anche in maniera sociale l'attenzione all'intervento. Io penso che a me non mi piace mai vederla in maniera così, come dire, premeditata. Io penso che sia il frutto ancora di una certa cultura che ci portiamo dietro un po' tutti quanti, no? Sul riportare la massa, è lì che si focalizza l'attenzione, dove c'è la concentrazione, sì, poi anche di capitali, ma io penso che sia un fattore successivo, quello che se montagna o no, perché in alcuni punti sicuramente tranquilla che anche in montagna la protezione civile ci è andata e l'hanno presidiato per bene, ok, diga. Sì cosa gli serviva, sì. Quindi la disparità è più in quello che è il, anche poi appunto gli aiuti da parte degli enti, è su quello che è il loro interesse. E così come ci sono stati quartieri, magari delle città dimenticati perché non avevano contatti, o perché appunto magari passava qualcosa di meno importante, come un centro commerciale che dovevi ripristinarlo subito, no? E accanto magari c'era una serie di negozi, quelli non si sono cagati tanto, allora poi lì si concentrano le attenzioni, le modalità, fino poi ad esaurirsi di questa attenzione, no? Come mi ricordo a Forlì, che c'è stato un bellissimo bellissimo, nel senso che c'era questo centro per i volontari di smistamento, no, ma era organizzato anche dalla protezione civile, ma era veramente una risorsa. E poi in un momento in cui questa cosa, no, stava funzionando troppo bene, abbiamo dovuto l'hanno chiuso e lì è morto questo movimento. Quindi non si tratta solo di montagna e fare sempre la dicotomia, ma capire quale forma di pensiero, no, poi canalizza le propri sforzi. E quindi noi dovremmo magari slegarci da questo meccanismo, no? Sempre che siamo sempre un po' soggetti a rispondere, no? A fare da eco, e cominciare a parlare a noi, come a concentrare l'attenzione su metodi di salvaguardia, di cura, di solidarietà, che siano trasversali e non così per ceto, per interesse. Così, forse non so se ho risposto alla domanda, ma è una cosa sì, che... Sì, sì, mi torna anche molto quello che dici. E rieccoci, Ponte Radio, Radio Wombat, sempre intervengo su me stessa. Qui, allora, tra le varie cose che abbiamo sentito a Terra Liquida, sempre rimanendo un po' su questa questione dell'emergenza come momento in cui si palesano delle problematiche che poi ci sono durante tutto l'anno, è stato molto interessante, secondo me, al tavolo sul dissesto idrogeologico. C'era un compagno dell'Alta Valle del Mugello, dell'Alto Mugello, che ci raccontava il flusso dell'acqua, cioè ci diceva: guardate che banalmente bisogna partire e seguire il flusso che fa l'acqua, cioè non puoi partire dalla valle e analizzare solo la valle, devi capire che flusso fa. E lui parlava delle alte montagne, cioè del Crinali e degli Alti Pascoli in particolare, come di un elemento molto importante, perché l'acqua parte dall'alto, in alto ci sono anche molte falde, l'acqua la vedi che ogni tanto appare, però molto spesso invece sta sotto la terra e non la vedi, però chi le sa guardare bene intravede i segnali. L'acqua inizia a scendere quando, diciamo, prima degli anni 50 in Italia c'era ancora l'abitudine di fare i pascoli in alta quota, o media quota, diciamo. Lì c'era l'abitudine per l'essere umano di mantenere le acque, quindi si gestivano in qualche maniera. Tipicamente c'erano questi pascoli con i canali, venivano canalizzate le acque, c'erano vari raccolti, punti anche banalmente che poi ti servivano per fare abbeverare gli animali, ma comunque servivano per rallentare anche il corso dell'acqua, gli fai fondamentalmente fare più giri e più percorsi. Perché anche questa cosa che dici te, paradossalmente è più semplice seguire l'acqua perché sono meno i torrenti e meno e questo è un problema, sì. Perché cosa succede se te questa cosa poi dagli anni 50-60, con l'abbandono dei pascoli e lo spopolamento, poi ne parleremo dopo meglio della questione del popolamento, anche del ripopolamento dei territori montani, però quando si iniziano a spopolare i pascoli vengono abbandonati, quindi non c'è più questa cura. Quindi l'acqua prende un po' la via che trova, che vuole. In contemporanea vengono ripiantumati a media, diciamo, all'altezza scendendo, si trovano, a un certo punto hanno iniziato a ripiantare alberi in maniera abbastanza a caso, quindi rendendo poi anche difficile, acidificando il terreno, per esempio con del tipi di scelte di colture sbagliate probabilmente, e rendendo poi quindi anche difficile ritornare poi magari su quei pascoli, perché banalmente non ci crescono più determinate erbe, eccetera. E da lì l'acqua prende la sua via, la prende in maniera sempre più violenta, e mano a mano che scende la collina o la montagna incontra il terreno sempre più urbanizzato, sempre più cementato, sempre più consumato, come abbiamo detto varie volte, e questo terreno, come sappiamo, è meno permeabile, quindi l'acqua prende violenza, e fino ad arrivare a una città che generalmente è satura di cemento, che ha costruito sui canali di espansione, sui canali, su quelli che prima erano anche i modi della città di regimentare le acque, di gestirle, Però il problema parte da monte e dal fatto che l'acqua non prende più una via gestita, controllata, in qualche modo più dolce, più gestibile, ma arriva giù molto violentemente. Quindi questi eventi di alluvioni, per comprendere perché succedono, noi abbiamo detto spesso anche all'interno di Tellurica, cioè si tende a guardare sempre solo l'effetto finale, quindi la città che si allaga. Il sintomo, letteralmente. Non si indaga su da dove arrivava l'acqua. Molto spesso io ho visto anche in alcuni territori montani dei nostri territori, delle nostre regioni, si alluvionava, straripava un fiume perché riceveva troppa acqua. Il massimo dell'intervento dell'amministrazione pubblica è stata ripristinare l'argine, lavorare sull'argine, va bene, però non si andava a vedere come mai era arrivata tutta quella mole d'acqua. E genericamente poi spesso si parla di eventi climatici estremi, si tira in ballo il cambiamento climatico, cosa che non è che non esiste, certo è vero, c'è. No, è un ulteriore aggravante nel contesto attuale, cioè c'è una completa mancanza di pianificazione e di manutenzione. Di manutenzione, cioè che poi davvero non è una mancante, è una specifica pianificazione, tipicamente ingegneristica, poi poveri ingegneri per una volta, cioè non, nel senso il fatto è che viene imposta una progettualità appunto di rattoppo o quantomeno di urgenza, e tipicamente una parola chiave di queste robe sono i tempi di ritorno, cioè tu fai un'opera dicendo questa opera ha 200 anni tempo di ritorno, che vuol dire resiste per 200 anni. Che è una cazzata, cioè è palesemente una fregnaccia postmoderna per, certo, raccontarsi che di star tranquilli nel momento, perché appunto un carattere che va oltre la crisi climatica attuale appunto è quanto questi eventi siano in un certo senso aspettabili, cioè non possono essere completamente esclusi, ma possono essere gestiti, possono essere monitorati, possono avere un impatto meno violento soprattutto sulle comunità, e che tra l'altro anche in questi casi questi tipi di emergenze sono tutt'altro che orizzontali, colpiscono molto di più le marginalità di qualsiasi genere, cioè questo è proprio fattuale, non c'è discussione su questo argomento, cioè se le case più afflitte nei territori urbani alluvionati sono quelle case popolari, le comunità più afflitte in montagna sono quelle più isolate, cioè questo è un quadro molto chiaro da questo punto di vista. Sì, e tra l'altro non è che le amministrazioni a livello tecnico non sappiano queste cose, non è una questione di ignorare, cioè, esatto, molto spesso sì. Si sente dire, non so, bisogna riscoprire le antiche, no, ma le sanno le cose, esatto. Cioè se vai a parlare con i consorzi di bonifica, loro hanno perfettamente chiaro che la questione arriva dall'alto, che bisogna riintervenire sui pascoli, sulle valli, sui... E il punto è che si interviene sempre in gestione emergenziale, a valle, tamponando le singole cose, però è impressionante come davvero, io l'ho notato anche nelle ultime alluvioni che ci sono state qui in Toscana, veramente il discorso pubblico è sempre su due, si concentra sempre solo su due cose, i cambiamenti climatici, che ormai è diventato un po' un mantra per cui sembra le cavallette, cioè è acceso cambiamenti climatici, che vuoi fare, bisogna adeguarsi, è così. Poi sono arrivati, cioè hanno aperto la porta, sono cascati. Così. E poi l'altra è la mancata manutenzione, quando c'è proprio la voce critica, cioè l'intervista al bar della persona critica, si parla ma non puliscono i tombini, ma non... Cioè, però veramente mi ha fatto impressione come davvero, anche ultimamente, cioè davvero abbiamo visto fenomeni pesanti, si parlava fuori dai microfoni, Portoferraio, l'isola sì. d'Elba, sarà completamente alluvionata, la settimana scorsa se ne è parlato penso per 2 ore. Spettacolarizzando tra l'altro la violenza dell'evento, cioè del dire vista quanta acqua è venuta un giorno, potrebbe sì. succedere, cioè quasi creare davvero uno stato quasi di paura su di inevitabilità, cioè metti le mani avanti, non ci si può fare niente. Quindi... E questo deriva anche forse da un allontanamento della conoscenza del proprio territorio, cioè comunque le persone spesso tendono a non, cioè, anche perché appunto la manutenzione si è delegata agli enti pubblici oppure all'individuo, insomma c'è tutta una serie di discorsi che deleghiamo e che non, di cui non ci facciamo carico, ma anche per il tipo di vita che facciamo, siamo molto immersi in un ritmo frenetico, però non... Ci viene anche, ormai abbiamo perso un po' l'abitudine a conoscere il proprio territorio e anche quindi a saper riconoscere i sintomi, le cause, ti è arrivata una cosa tra capo e collo, perché non sei preparata, perché non hai, e non sai riconoscere da dove è arrivata, perché ti manca un radicamento nel tuo stesso territorio. E di questo forse, questo ci serve d'aggancio per il prossimo pezzo, cioè il prossimo spezzone di intervista. A questo punto abbiamo ripreso un po' tutti e due, abbiamo fatto parlare tutti e due i nostri ospiti sul ripopolamento delle campagne, delle montagne in particolare, quindi come vogliamo vivere in montagna, perché si parla di spopolamento, ma quindi ci andiamo? E se ci andiamo, le montagne sono pronte a ricevere anche? È un bene? Forse gli stiamo aggravando la situazione. E di questo parliamo dopo un breve stacco musicale. Chiedo a questo punto a tutte e due, abbiamo parlato moltissimo durante Tellurica della questione del cosiddetto spopolamento delle montagne o comunque dei territori non urbani, e del fatto che è una cosa abbastanza ormai sulla bocca di tutti, che gli Appennini per esempio sono spopolati, ma così come anche il Casentino e tante zone di cui abbiamo parlato con chi ci vive anche durante questi due giorni. E sono state dette, ci abbiamo provato a interrogarci anche un pochino e forse può essere interessante riportare qui in radio anche un po' quelle, le cose, le considerazioni che ci siamo dette a Tellurica su cosa vuol dire ripopolare un territorio e come lo vorremmo ripopolare. Se lo vogliamo ripopolare, è stato detto, per esempio, una questione è stata posta sul fatto che ma le montagne sono pronte a ricevere un ripopolamento con queste con le nostre abitudini, cioè che ha con degli esseri umani che ha le abitudini così energivore, così consumiste anche. Altri quesiti sono stati posti sul che tipo di ripopolamento vorremmo avere, cioè vogliamo semplicemente che la città si estenda, per così dire, alla, alla montagna e quindi che le persone che prima vivevano in città e che magari vengono anche espulse dalla città perché non hanno soldi per continuare a viverci, allora si rifugiano nelle campagne perché costano di meno. Vogliamo semplicemente che queste persone si trasferiscano, una sorta di copia e incolla delle persone da un territorio a un altro. Vogliamo invece provare a ricostruire delle comunità e farlo in maniera diversa. Non so, vi chiedo un po' a tutte e due, perché avete delle esperienze diverse in territori diversi, però che partono sia da momenti anche emergenziali, perché anche l'opposizione a un'opera dannosa, anche quella, abbiamo detto, è un'emergenza in qualche maniera. E lì però poi mi sembra che entrambi queste situazioni vi siate interrogati sul ma come si fa comunità, come si mantiene una comunità e che forma gli vogliamo dare. Beh, dunque, l'urbanesimo è un fenomeno secolare che ha diciamo fornito indubbiamente dei grandi vantaggi a chi ci si spostava nel corso dei secoli in termini di comunicazione, di accessibilità a risorse, anche di accessibilità all'influenza politica. E, naturalmente, insieme con tutti questi vantaggi, proprio perché le dimensioni sono state via via, di questa concentrazione sono state via via crescenti, insieme naturalmente a un dominio che c'è sempre stato da parte delle grandi città come centro del potere, delle dinastie, rispetto alla campagna, vista come luogo di estrazione di servizi alla città, insieme però con tutti questi vantaggi è venuta una congestione e la congestione è poi stata foriera di tutti i disagi, perché poi sì, è vero che ho l'opportunità di vedere un monte di più di persone perché sto in città, c'è un sacco di gente, però poi devo fare le code. Soprattutto la cosa è esplosa con la motorizzazione privata, e anche in termini naturalmente di inquinamento e così via. Allora il ripopolamento può essere in parte già di fatto è frutto di una nuova generazione che non è quella stanziale identitariamente legata al passato, di cui è rimasta una piccola testimonianza abbandonata da tutti gli altri, ma è un ripopolamento di un ceto, diciamo di un gruppo che lascia la città perché la vede criticamente e quindi ha in mente un progetto che è una ripresa di un diverso modello di vita, che non è naturalmente un ritorno primitivista, ma comprende la coltivazione, per esempio, delle terre con metodi anche scoperti di recente, di biodinamica e cose di questo genere. Quindi è non è un puro ritorno al passato, ma è una consapevolezza degli aspetti critici di quello che si lascia. E quindi in parte anche un recupero di attività che venivano compiute in passato forse e che però avevano perso di valore relativo rispetto a quello che si faceva in città e che invece adesso lo possono riacquistare, perché se io compro tutta roba fatta dalla cooperativa dei produttori del Prato Magno nella botteghina che c'è a loro, io sono convinto, e non credo di illudermi più di tanto, che quello che mangio contiene meno schifezze di quello che avrei potuto comprare al supermercato. Quindi ci sono dei vantaggi, ci sono. E questo è un aspetto. Un altro aspetto, qui è proprio un mio parere personale, non voglio coinvolgere Prato Magno Senza Asfalto in questo, la nuova ripopolazione deve essere fatta di migranti. Perché questa, secondo me, è la contraddizione principale mondiale. Tant'è vero che tutti i governi reazionari in modo anche grottesco, no? Come abbiamo il presidente degli Stati Uniti, è la loro preoccupazione principale, perché effettivamente c'è una pressione basata da scelte del tutto individuali, con attrezzatura culturale o religiosa che a noi ci potrebbe anche fare un po' impallidire, no? Ma persone che sono disposte a rischiare la vita per venire a condividere una parte di questo benessere di cui noi, anche i più poveri di noi, in parte godono, e frutto anche naturalmente del colonialismo in passato, di quello che continuiamo a poter imprimere. Allora, questa allusione alla giustizia sociale che viene manifestata non con un atto politico, ma con un atto che lo è, semplicemente per rischiare la vita per venire a prendere una qualche briciola, è la principale preoccupazione della cosa su cui con tutta sincerità i detentori del potere finanziario economico è la cosa che cercano di attuare in buona fede, perché ci credono a questa cosa, a mantenere i dannati della terra dove stanno, no? E il problema è che il proletariato delle zone nord del mondo, il proletariato occidentale europeo, è preda di questa fallacia, e cioè che sia meglio raccogliere le briciole di Briatore e di Elon Musk piuttosto che dovere condividere con i dannati della terra le ricchezze mondiali. E questo fascino, abbiamo addirittura un partito che dalla sinistra, un partito resta comunista, ma ha delle posizioni ambigue sull'immigrazione, quindi anche non ambigue. Ecco, bravissimo. Allora, allora un punto di contatto importante, una testimonianza del nostro impegno per inserirci pienamente dentro questa contraddizione, che io continuo a ritenere la principale, sta proprio nel dire a queste persone, che tra l'altro forse un po' di competenza ce l'hanno anche sul fatto di lavorare nella montagna, perché provengono da ambienti che prima venissero completamente rovinati dalla guerra o dalle estrazioni, eccetera, magari assomigliano per alcuni versi, no? È di questa gente che dobbiamo ripopolare anche la montagna. E un po' sta succedendo, tra l'altro. Certo. Io lo vedo succedere un po'. E non so, posso fare una testimonianza? Sì, no, sì, testimonia. No, nel senso che io sono di città, ho sempre vissuto in città e sono di quelli che piano piano hanno coltivato l'idea di uscire dalla città, anche inconsapevolmente, dipingendola con dei tratti anche forse romantici, perché voleva dire cambiare lo stile di vita, occuparmi di cose diverse e seguire un esempio, una via, un cammino che potesse essere una briciola nel mare, ma contribuire a un movimento di cambiamento. Adesso io da pochissimo tempo vivo in montagna, in collina, mi occupo di giardinaggio, però noto che non è cambiato tanto il mio stile di vita rispetto a prima. Io frequento il supermercato, sì, vado in macchina perché non mi costa così poco. Anche perché spesso in collina e in montagna sei obbligata, tra l'altro, ad andare in macchina, sì, perché non c'è i mezzi pubblici. E quindi qui si apre un grande quesito, no? Dove la montagna, cioè almeno dove finisce la città, dove inizia la campagna, no? Un dilemma antico, potremmo dire. No, tra il topolino di campagna e il topolino di città, che avevano attitudini diverse perché il contesto era diverso. Io sento che ormai la città è diffusa ovunque, no? Ovunque la città, e non serve essere dentro i contorni della città, anche che già non ho più confini da parecchio, per avere quello stile di vita lì, no? Nonostante si viva apparentemente in un contesto molto diverso. Ovviamente io sto esagerando, perché è chiaro che ci sono delle differenze enormi. Sta di fatto che, appunto, di nuovo volevo rompere un po' questa dicotomia città-campagna, vedendo appunto delle trasversalità, delle affinità, che come non mi ricordo come si chiama quella di rivista contadina, sì. Pamela, no, vabbè, faceva riferimento al fatto che ci sono dei rimandi tra delle proposte che fa la città, no, tornando alla campagna, e poi esportando, no, dei modelli anche economici, come aver portato i gas, che però magari non sono funzionati bene, perché magari non si confrontavano poi con una maniera diversa, con l'abitare, e quindi anche l'economia, i consumi, ma riproponevano delle dinamiche, diciamo, di città, o comunque, no, di essere dei consumatori. Quindi Il ripopolamento di che cosa, no? Della città, della campagna nei confronti della città, è un bilanciamento che non so quanto funzioni in una dinamica di città metropolitana, no? Che ha i contorni di un territorio totale, di tutto il territorio. E quindi interrogarci su che cosa vuol dire abitare o ripopolare la montagna, significa anche capire che cosa vuol dire abitare un territorio. E quindi capire qual è il nostro impatto, no? Inevitabilmente sul territorio, sull'uso delle infrastrutture, dell'energia, del suolo, di tutta una serie di servizi che se non cerchiamo di capire, no, che cosa vuol dire, quindi creare degli scenari che valgano tanto per la campagna come per la città, perché sono sempre interconnesse, sempre di più, si rischia di ritornare poi a delle dinamiche che si esauriscono, hanno bisogno di trovare delle nuove categorie, no, sulle quali basare questo progetto, comunque movimento per cambiare lo stile di vita o comunque l'impatto sul territorio, sulla terra. Sì, no, penso sia molto vero anche l'accenno a cui facevi, insomma, quel discorso che facevi sulla romanticizzazione di come viene vista la vita in campagna, come se fosse, peraltro adesso lo è, ma insomma è da un bel po' che assistiamo un po' a questa visuale un po' miope, un po' obliqua. E chissà, mi viene in mente che forse anche attraverso questi momenti in cui poi c'è un'emergenza tra capo e collo e quindi la vita in campagna ti sembra meno romantica perché bello tutto, ma quando poi ti frana la casa fai conti con la difficoltà anche del vivere in questi territori o con l'isolamento, cioè i nodi vengono anche un po' al pettine. E però è anche lì che sarebbe interessante ricucire quel rapporto tra città e montagna, perché è in quel momento in cui ci si ritrova anche, sì. Cioè ci ritroviamo nelle sfighe che hai in città e hai anche in campagna e in montagna, e iniziamo a forse vedere anche le cose che ricorrono, gli elementi comuni. Sì, sì. A me piace pensare sempre ai margini, no? Che sono appunto quegli elementi, spazi di manovra nei quali ci sono appunto delle occasioni come le emergenze nei quali ci si confronta e si ha la possibilità di identificare dei luoghi, delle stanze attraverso le quali ci si può confrontare e costruire nuovi scenari, nuove proposte. Trouble breathing in. questo pezzo si chiamava Avant Gardener, quindi ci sembrava sì, centrato. Sì, esatto. Giardinaggio d'avanguardia. Giardinaggio. E, sì, abbiamo un po' affrontato in questa conversazione, avete sentito, la questione del ripopolamento. Anche lì è un leitmotiv, quando si parlava a inizio puntata della riqualificazione dei territori, non fanno eccezione i territori montani, i territori non urbani che vengono visti da riqualificare, e quindi si parla spesso della questione del tema del ripopolamento delle montagne, dell'Appennino, ma anche e soprattutto quei territori. Ora noi ci siamo concentrati, perché le presenze di terra liquida erano queste, sul territorio magari toscano, nell'Appennino romagnolo, ma se scendiamo nel sud Italia ancora di più si parla di ripopolare i territori, sì. L'Abruzzo, insomma, è una cosa che ricorre. Cosa ci siamo molto interrogate sul cosa vuol dire ripopolare un territorio. Sì, che è, diciamo che dei tanti, purtroppo dei tanti washing, perché secondo noi un po' anche questo ci rientra, o quantomeno è l'ennesima discussione dove i problemi vengono un po', i sintomi e le cause vengono un po' confusi, si mischiano e non si capisce. Sì, diciamo il contributo di Terra Liquida è stato secondo me molto interessante, proprio perché cristallizzava un po' il problema in un certo senso, cioè quando è utile ripopolare, come è utile ripopolare. La condizione proprio necessaria che è emersa, ma che forse è anche un po' intuitiva a ogni mente onesta, è conoscere i territori, avere idea di dove uno sia, avere una rete, anche conoscere altre persone nel territorio, avere una consapevolezza ambientale, eccetera, eccetera. Questo può a sua volta costringe a un approfondimento del ragionamento, perché che vuol dire questo? Che uno conosce un territorio solo se c'è nato? Non ha alternativa, cioè non possiamo mescolarsi, introdurci in nuovi territori? Sì, si può fare, almeno questa è un po', diciamo, la somma che ci siamo date, però va fatto in maniera rispettosa, cioè non si può scavallare il territorio e le persone che già esistono in un territorio. Questo c'è parso molto importante come ragionamento conseguente, cioè da un lato appunto la conoscenza e dall'altro il rispetto del sembro Papa Francesco, però no, però è una cosa reale, cioè è tipico, e chiunque di noi abbia fatto lotte avrà provato un po', magari probabilmente un po' di stizza di mettere il cappello sulle lotte altrui, di zompare, di dire lo zapaturismo. Sì, esatto, no, di vedere la partecipazione altrui eventualmente come temporanea, perché non così costante. La realtà, ora è un parolone, però una sensazione che abbiamo avuto è che anche questo essere restie verso queste robe è un po' un sintomo dell'isolamento, forse, cioè siamo così poco abituati alla commistione, all'influenza reciproca, alla partecipazione, che poi quando succede, se non è esattamente come la vogliamo noi, possiamo avere possiamo essere un pochino più distanti dalla questione. Questo secondo me è, lo dico davvero senza giudizio, di nuovo come Papa Francesco, ma secondo me è contestuale, è una cosa che proprio parlando personalmente è capitata a me, cioè ti sbatti tantissimo in una certa lotta, vedi una persona un po' così, dici ma chi t'ha mai visto? Sarebbe importante trovare un equilibrio tra, sì, le due cose, perché comunque anche quello, noi abbiamo fatto questa critica e di base penso che la possiamo anche continuare a fare, perché è anche giusta. E dall'altro lato molte persone che si trovano a difendere il proprio territorio e che con cui abbiamo parlato durante Tellurica ci dicevano sì, no, però aspetta, noi abbiamo bisogno di, esatto, quel contributo. Esatto, sì. E infatti, e tra l'altro, in quel caso là, proprio, cioè, si sta parlando veramente di comunità molto isolate, di anche oggettivamente non tante persone. Quindi, cioè, sentir da loro questa cosa è stato particolarmente rilevante. Cioè, dire no, guarda, venite comunque. Sì, l'importante sarebbe anche lì, bisogna vedere quanto quella comunità ha gli anticorpi poi per poter certo. anche assorbire quel tipo di contributo, se magari è un contributo anche, come dire, mi viene da dire quasi peloso, nel senso sì. perché effettivamente c'è anche questa parte, cioè non viviamo nel mondo dei puffi, cioè c'è anche questa tendenza al ok, quello diventa un terreno di lotta, quindi nella mia povertà di movimento in cui magari c'è poche situazioni rivoluzionarie, vedo un terreno di lotta, mi ci ficco sperando di cavalcare un po' l'onda. Questa roba qua chiaramente porta con sé le macerie. Eh sì, quando appena, in un certo senso sì, diciamo che ciò che ci è sembrato completamente da rifiutare sia l'aspetto strumentale della lotta, strumentale e diciamo fumoso, ecco, di una partecipazione per un altro fine. Sì, un ascolto. Se forse. Viene, dicevamo prima che come molto similmente almeno alle lotte del lavoro qua del Fiorentino, ad esempio dei Sud Cobas, dove l'orizzontalità è un carattere forte di quella lotta, cioè è veramente centrale. Sfido chiunque ad andare a un'assemblea dei lavoratori e vedere mancare quell'orizzontalità stessa. Ci è sembrato cioè che la stessa cosa deve essere garantita nelle lotte territoriali, cioè se con più compagni o compagne, più informati, meno informati, però vanno e si impongono con strategia o meno su lotte altrui, è sempre sbagliato. Ah, certo. Sì. Quindi a questo punto ci mancano circa 20 minuti alla conclusione di questa puntata del Ponte Radio. L'ultimo intervento è un intervento di un'intervista presa da un altro compagno che era presente a Tellurica e che ci racconta di come si è accostato anche a questi territori, venendo non solo da un contesto diverso, perché magari arrivi da una città, come dicevamo, e arrivi in montagna, ma addirittura anche da un altro paese, perché è una persona che arriva dall'estero e si ritrova proiettato in un territorio montano con le sue contraddizioni, le sue difficoltà, l'isolamento di cui abbiamo parlato finora. E una riflessione interessante che faceva a margine, non mi ricordo tra l'altro se l'abbiamo registrato o la faceva solo a margine, che però mi interessa riportare, è anche proprio la difficoltà che tu hai quando di fatto ti vorresti vivere un territorio, conoscerlo, radicartici, ma di fatto sei dipendente dal lavoro salariato, per cui ti tocca mantenere il rapporto con la città, sei dipendente dalla città, e quindi di fatto molto spesso questi territori vengono trasformati in territori dormitorio, dove tu ci dormi, magari il sabato e la domenica ci puoi stare, ma il resto del giorno di fatto lo vivi in città. E quindi questo è anche molto, poi è una difficoltà che magari tu parti con belli ideali, io voglio ricreare una comunità, ma la verità è che tu non ci vivi in quel territorio perché passi poco tempo in quel territorio. E quindi sì, non abbiamo soluzione a tutto questo, solo sollevare problemi, però è anche bello che se ne inizi a parlare concretamente. E quindi vi facciamo ascoltare questo intervento che sarà un po' l'ultimo di oggi. Sì, un intervento anche sempre da Tellurica, un altro compagno che era presente e che forse vuole aggiungere qualcosa. Sì, no, cioè, provo ad articolare il meglio possibile un pensiero sullo stesso tema, sul come si vive la montagna, la campagna o in casa mia la collina, nel contesto di questo tema che si è discusso, che appunto il tema di come si vive del ripopolamento della campagna, che era stato tirato fuori principalmente dovuto al fatto che all'osservazione che i territori sono più a rischio sia del trascuramento che dell'estrattivismo dovuto all'essere spopolati e alla problematizzazione della ripopolazione quando prende forme che sono anche a loro maniera estrattivista, come l'esodo dei pendolari dalle città e la trasformazione della campagna in una forma di dormitorio periferico, o anche quando prende la forma quando prende la forma della seconda casa in campagna, o anche di semplicemente dove le persone vanno per passarsi la pensione, che è anche molto più comprensibile. Sì, però sono tutte forme, in effetti, che non è che sono deprecabili, però sono poi rendono difficile anche la vita quotidiana. Infatti, io penso che si può formulare l'antitesi dell'estrattivismo come riconoscere un posto di valore, però pensare più di inserirsi personalmente dentro quel posto di valore. La mia esperienza stando in campagna è stato quello di arrivare dall'estero e trovarmi trovarmi ad abitare con delle persone che non avevano mai lasciato la campagna, anche se dipendevano economicamente dalla città, e di rendermi conto che semplicemente vivevano meglio che vivevo io. È importante riconoscere che rispetto ai paesi anglofoni, in Italia la rivoluzione industriale e l'urbanizzazione non si è mai compiuto così completamente quanto si è compiuto in alcuni altri paesi. C'è rimasto una ricchezza enorme di conoscenza e di collegamento con i terreni, con i territori, scusatemi. Nel mio percorso ho trovato, la mia esperienza è stata quello di, penso che è il modo naturale in cui un essere umano si comporta nel suo rapporto con un posto o con un problema quando ha la pace e il tempo di fare le cose nella sua maniera naturale, cioè stando in un posto, impegnandosi nella rispondersi ai bisogni primari, uno si svolge un procedimento graduale di espansione anche, anche capillare, di conoscimento, conoscimento e rapporto con la zona, e di un aumentarsi degli strumenti di comprensione e di controllo, in un certo senso, riguardo a o una zona o un problema. E io penso che l'esercizio di questo svolgere questo percorso è esercitarsi in quanto essere umano, e collettivamente corrisponde molto alle mie esperienze nei collettivi funzionali, che un collettivo che dà l'attenzione a un problema maturato un certo chilometraggio di attenzione a quel problema, fa lo stesso percorso di espansione capillare, di comprensione e le sue strumenti di controllo sulla situazione. E penso che impedire che una persona o una collettività faccia le cose così è quello che si vuole dire quando si parla del reprimere una persona o una collettività. E segue da questo che la vita cittadina e l'organizzazione politica statale è fortemente repressivo delle persone singole e delle collettività. Penso che riconoscere questo vuol dire anche concepire l'idea di rivoluzione non in termini di una forma di svolgimento di cambiamento sociale, ma una transizione per qualsiasi modalità verso un mondo, un ambiente, una società che si gestisce tramite questo procedimento dell'espansione capillare degli strumenti di comprensione e controllo dalla parte di persone singole e dalla parte di comunità. Per concretizzare in questo contesto, molte persone hanno parlato preferiscono non parlare di ripopolamento, ma di radicamento o ripresa di persone sul territorio, nell'ottica dell'autonomia alimentare. Nella mia esperienza l'ho formulato in una maniera che non l'ho potuto perseguire continuativamente, perché anche io ho dovuto lavorare, ho dovuto impegnarmi in altre cose, ma quando ho potuto fare, mi sono interrogato su quanto il fatto di stare nel posto in cui sto e coltivarmi il rapporto con quel posto mi può sostituire gli aspetti repressivi della società, quanto usufruire del posto mi può sostituire il lavoro da dipendente, quanto posso aumentare la proporzione della mia sussistenza che ottengo tramite il lavoro diretto col posto, l'inserimento nel posto e un rapporto col posto, rispetto a quanto devo ottenere lavorando per avere soldi per comprare cose che vengono da altri posti con cui non ho un rapporto, la distruzione di cui non percepisco e su di cui non ho controllo, a parte ritirarmi il contributo monetario a questa estrazione. Cioè, penso è quello il modo in cui concepire un rapporto non estrattivista con i posti. È una delle preoccupazioni, cioè la forma che ha preso questa preoccupazione durante Tellurica, una delle forme, scusatemi, è stato quello riguardo al coinvolgimento del sostegno dalla parte del sostegno militante in momenti di emergenze sia sia di alluvionamento, di disastri naturali, che emergenze delle grandi opere. Sì. Una cosa proposta o suggerita è che è molto importante smontare un po' l'idea della reciprocità economica fra zone, che è un po' come la divisione di lavoro fra persone, cioè Chianti fa il vino dal Mugello e si prende le macchinette da caffè e si prende l'energia dai pali eolici, da Firenze ha il turismo. E penso che un modo naturale per smontare questa reciprocità è l'iperspecializzazione e l'estrattivismo reciproco fra zone, è appunto quello di radicarsi in quanto persone nei posti e di trarre quanto possibile la sussistenza variata dal posto, perché come nella stessa maniera in cui una persona che non semplicemente lavora in un'occupazione singola per avere tutte le risorse della vita, ma si diversifica le attività lavorative ognuno secondo un'esigenza diversa, si diversifica anche le competenze e l'umanità, cioè, si arricchisce in quel senso. Nella stessa maniera un territorio da cui le persone che ci stanno traggono tutta la loro sussistenza naturalmente si diversifica e diventa meno soggetta allo sfruttamento lineare, alle di cui la metafora estrema è la monocultura. È un rischio nel sollecitare, nel cercare il sostegno alle lotte, è quello di rendere una zona di lotta, nel senso in cui il ruolo di quella zona o il valore attribuibile a quella zona diventa dalla parte dei militanti il fatto che sia terreno fertile per fare rivoluzione o qualcosa del genere. E questo non è un problema critica, non è una cosa che impedisce la ricerca della solidarietà, però è una cosa che va tenuto presente nell'impostazione dell'importo, cioè della richiesta di solidarietà, nei modi in cui si propone che le persone ci frequentano i posti dove abitiamo. Non ho proposte specifiche, ma penso che è molto importante mantenere questo atteggiamento sia quando si offre solidarietà alle altre persone, che penso è un nostro dovere e non è una presunzione, che quando lo chiediamo al nostro turno. Beh, mi sembra che abbiamo dato tantissimi spunti. E vi ringrazio moltissimo di tutto e della vostra presenza e delle vostre parole e niente, poi ci terremo in contatto. Questa è un po' la promessa che anche esce da Tellurica, che penso che anche attraverso la radio sia uno degli strumenti con cui possiamo continuare a tenerci in contatto. E allora, da Protomagno Senza Asfalto, grazie a Tellurica, grazie al centro sociale autogestito ex Emerson di Firenze Castello e grazie a Radio Wombat, che mi pare di capire, forse magari è vero, non lo so, sia una crasi fra women e combat, che è una cosa carina di sapore curdo, diciamo così. In realtà è un animaletto australiano, ma comunque che contiene comunque anche la parola womb, che ci piace, utero. Lo useremo. Grazie a voi. No, vabbè, questa cosa finale è stata bellissima. Bentornati alla crasi, programma di approfondimento. È stato molto bello e no, vi vogliamo rassicurare che Radio Wombat è un animale australiano. Quindi siamo giunte alla fine di questa puntata del Ponte Radio dedicato alla montagna, sponda Radio Wombat. E, direi che vi diamo il contatto di tellurica2025.vado.li. È un link dove potete poi approderete alla paginetta che era stata fatta sul sito del Next Emerson per condividere l'invito e preparare questa 2 giorni, e penso che da lì poi ci si potranno anche leggere gli ulteriori le cose che avverranno poi. Sì, sicuramente, molto probabilmente svilupperemo un po' di altre cose, però tutti gli aggiornamenti si possono essere visti là. Sì, la cosa bella, appunto, per chiudere, per darvi proprio chiudere il cerchio e raccontarvi com'è andata Tellurica, effettivamente c'era veramente una grande voglia di continuare a vedersi e fare cose insieme, e anche di allargare tutte le persone, i collettivi che non erano potuti venire, insomma, si spera che le prossime ci saranno, e quindi insomma ne vedrete, penso, ne sentirete ancora parlare, sì, questa è la speranza. Sì. E quindi vi diamo un abbraccio, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo pezzo musicale, il Basement... come si legge? Basement Jacks. Yes. Esatto. E vi lasciamo con il resto delle programmazioni, dei palinsesti, delle rispettive radio dalle quali ci state ascoltando, e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Ciao, ciao. Ciao. It's easy for you to say, but I'm in the armpit of nowhere. Yeah, well, I'm meeting some guy who says he has the latest thing in pop music. Yeah, I know, yeah. We'll be right back.